Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ed eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti. Allora, leggeremo i giornali. Ora, vi ricordo che avremo ospite Luca Zaia, governatore del Veneto, quindi parleremo di immigrazione. Dalle 8:20 avremo anche ospite l'assessore al patrimonio del comune di Roma, Alessandra Cattoi. Torneremo su quella vicenda che abbiamo raccontato, che ha fatto imbestialire molti ascoltatori. Si è scoperto che a Roma ci sono 7.000 case del patrimonio pubblico con un affitto a 7,75 euro al mese. 7 euro, se è una pizza margherita, è una 4 stagioni e ti porti a casa un affitto mensile di una casa popolare. Ne parleremo con l'assessore Cattoi per capire, anche in questo momento di grande pressione politica sulla Giunta Marino, come sia possibile e come si possa imporre rimedio a questo che appare evidentemente uno scandalo sotto gli occhi di tutti. Allora, più tardi, però ora leggiamo i giornali. In questo venerdì 26 giugno, eccoci qua. Con i titoli, intanto, Il Sole 24 Ore apre su pensioni, rimborsi al via, così l'assegno ricalcolato. Questo è il titolo di prima pagina, poi vedremo tutti i dettagli anche con Mauro Meazza di quella che è la svolta sulle pensioni. Pensioni e scuola sono i due temi più importanti della giornata politica di ieri, oltre ai migranti. Avvenire li mette insieme le due cose, doppio sblocco, scuola sia la fiducia su riforma e assunzioni, pensioni via rimborsi, 800 euro ad agosto. E poi la Grecia davvero nelle ore decisive, questo si può dire. Domani un nuovo vertice per il Corriere della Sera, Grecia nell'angolo, gelo dell'Europa sul piano Tsipras, e anche il Messaggero, Grecia, i falchi alzano la posta. E poi veniamo appunto alla scuola, approvata con il sì, con la fiducia al Senato. Repubblica, sia la riforma, ecco la nuova scuola, il Senato vota tra le proteste in piazza, mentre il Manifesto mette una foto di una manifestazione e il titolo è Silenzio in classe. Per la Stampa invece, migranti, l'Europa litiga sulle quote. Libero, l'Europa ci fa neri, fregatura sugli immigrati. Per il Giornale tutto ciò è riassunto nel titolo Renzi, clandestino, schiaffi da Bruxelles. Mentre il Fatto Quotidiano mette la storia del Severino, se salva De Luca ad personam, Renzi commette due reati. Questa è la vicenda Severino, ancora ben sotto gli occhi di tutti. Voglio però partire da un altro governatore, il governatore del Piemonte, che è anche il presidente di tutti i governatori, che rischia anche lui. E oggi il Corriere della Sera pone questa data, dice attenzione al 9 luglio, è un pronunciamento del TAR. Perché? Sergio Chiamparino rischia di decadere. Voi dite addirittura, e perché? Perché ci fu una vicenda di raccolta di firme presunte false nel PD al momento della compilazione delle liste. Tra l'altro è un grande contrappasso, perché sapete che anche il predecessore Cotta aveva avuto problemi di questo genere. Ebbene, il pasticcio delle firme false nel PD paralizza il Piemonte di Chiamparino. Pagina 13 del Corriere della Sera, Marco Imarisio racconta. Intanto l'antefatto, la meravigliosa armonia che regna nel PD piemontese. Era la notte del 18 aprile 2014, a momenti si menavano tra fassiniani, nel senso di sostenitori di Fassino, sinistra interna, renziani reduci della Margherita e ateniesi, la corrente locale degli ortodossi, seguaci della prima ora del Presidente del Consiglio. Mancavano poche ore alla presentazione delle candidature e si litigava. Togli un nome, mettine un altro. La lista cambiava volto e nomi ogni minuto a seconda di chi prevaleva. Alla fine si trovò la quadra, la si trova sempre. Piccolo dettaglio, a forza di scannarsi, non c'era più tempo per trovare le firme di sostegno ai prescelti, obbligatorie per legge. C'era bisogno di qualcuno che vidimasse quelle raccolte ai banchetti, ma ormai si era fatta una certa ora e forse qualcuno venne in mente di falsificare quelle dei titolari. Da qui nasce un esposto, tra l'altro di un leghista, e quindi vendetta, tremenda vendetta, scrive Imarisio sul Corriere della Sera, visto che nel 2010 la vicenda delle firme false diventò la spada di Damocle che rese la vita impossibile all'allora governatore leghista Cota. C'è un ricorso e ci sarà un pronunciamento del TAR, e qui veniamo al 9 luglio, alla data del 9 luglio. Ora si difende così Pasquale Valente, ex consigliere provinciale PD, pensionato, arrivato 45 anni fa a Torino, che ripete: io le firme le ho raccolte, sono una brava persona. Sono un po' sotto mira le sue firme, le firme vidimate da lui. È quasi un anno che non riesco neanche ad andare più al bar. La gente mi vede, mi indica come quello delle firme false. Questo a Torino. Vabbè, il pasticcio delle firme false, vedremo che succede per Chiamparino. Mentre invece colui che ora può dire non ho più nulla da temere per il rischio di decadimento è... di decadenza più che altro, è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. De Magistris è in carica, sospensione annullata. Ormai è definitivo, Luigi De Magistris non tornerà a fare il sindaco di strada, come ha detto lui, perché la sospensione del primo cittadino di Napoli, ha stabilito il giudice civile, resterà congelata fino alla decisione della Corte Costituzionale sull'eccezione di legittimità costituzionale della legge Severino. È ciò che spiega Dario Del Porto su Repubblica, pagina 14, insomma De Magistris è salvo. Tanto che è vero che il Fatto Quotidiano va a intervistare l'unico, come definirlo per non essere sfigato, ecco, diciamo così, il sindaco di Melilli. Voi direte, e chi ha fatto il sindaco? Il sindaco di Melilli è decaduto per la legge Severino, per una condanna, e si chiama Pippo Cannata, viene intervistato a pagina 3 e dice: qui nessuno paga e a me m'hanno crocifisso per due volantini. Intervistato da Antonello Caporale, eccolo qui, non può mettere più piede in municipio a Melilli. Guardatemi, ditemi, merito di essere crocifisso, dice il sindaco Cannata, merito una punizione che nessuno ha patito e patirà, merita il sindaco di Melilli di vedersi deturpata l'immagine, merita di stare con le mani in mano, merita di dondolare nella fannullaggine, fa tutte queste domande retoriche a inizio intervista. Qui sono stato fatto fuori per aver fatto stampare manifesti comunali nei quali si dava conto delle imponenti opere realizzate nel comune e avrei usato, secondo l'accusa, soldi sbagliati, fondi non giusti, queste cose qua, così le liquida così, queste cose qua, c'è una condanna. Però. Insomma, è stato condannato per abuso d'ufficio, condanna in primo grado e in secondo, ma ho fatto il ricorso in Cassazione, è stato un reato di opinione quasi, nulla di criminale, nulla di veramente sporco, dice il sindaco. E invece, che vede, i potenti ce la fanno, hanno avvocati coi fiocchi, eh? Non mi ci faccia pensare, dice così il sindaco di Melilli, che rimane l'unico, come dire, un po' fregato da tutta questa vicenda, eh? Un po' fregato, effettivamente un po' così. Allora, cari ascoltatori, è venerdì, prima o poi dovremo morire tutti. E oggi Libero mette in prima pagina questa bella notizia. Arriva la TASI sui loculi e la superiva sui funerali. Il titolo emblematico: saranno mortacci nostri. Questo è il titolo di Libero. Il PD vuole tassare i funerali. Franco Bechis racconta, pagina 4, il disegno di legge che porta la firma di Stefano Vaccari, che è un deputato, e che prevede, tra le altre cose, scrive Libero, le tasse, prima di tutto. Arriva l'IVA al 10% sui servizi funerari, che fino ad ora ne erano esenti. Poi, seconda tassa prevista, per ogni operazione cimiteriale richiesta, tumulazione, cremazione, verrà introdotto un balzello fisso di 30 euro, rivalutato annualmente, secondo indici Istat, del costo della vita. Pensa un po' a te l'ironia. Indicizzano col costo della vita per le tasse sulla morte. Però, non è male. Terza tassa sul caro estinto, questa volta in diretta. Il disegno di legge del PD prevede l'obbligo per i comuni di destinare il 20% della TASI incassata ai cimiteri monumentali per la loro gestione, che la stessa legge fa lievitare come costi. Oh, saranno mortacci nostri, come titola Libero? Chi lo sa, Libero con Franco Bechis è sicuro, se passa questo disegno di legge il rischio davvero è questo. Ma... è il momento dell'articolo che ci fa più incazzare della giornata. L'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, le mani sul microfono, ovunque, le tazzine del caffè bollente da appoggiare in questo momento. Non paghiamo neanche i vestiti se si sporcano di crema coi cornetti che schiacciate per la rabbia. Ve lo dico, eh. Oh, respirate, 1, 2, 3 e andate a pagina 2 del giornale. Aggredisce un vigile con la spranga, ma lo scarcerano perché clandestino. Marco Gemelli racconta questa storia: ha aggredito un vigile urbano con una spranga di ferro, ma fermato, portato davanti al giudice, è stato rimesso in libertà. E perché? In carcere no. E vivendo in una casa occupata e senza residenza, e quindi non può avere gli arresti domiciliari. Molto semplice. Se a compiere il gesto fosse stato un cittadino in regola, magari italiano, sarebbe finito certamente ai domiciliari. Ma essendo costui un venditore abusivo, è libero di tornare in strada a smerciare i prodotti contraffatti sotto gli occhi di turisti e agenti di polizia municipale, sempre meno motivati ovviamente a intervenire. Avviene a Firenze, Italia, e lo racconta oggi Il Giornale a pagina 2. Io mi chiedo sempre, ma come è possibile una cosa del genere? Come è possibile? Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Hai problemi di coppia? Ora per te c'è Alessandro Milan, per l'uomo che non deve chiedere mai. Vabbè, adesso qua ci stiamo montando la testa, questa è la verità. Ci stiamo montando un po' la testa. Comunque, tornando alla lettura dei giornali, cari ascoltatori, uno dei temi sicuramente politici di ieri è stato sì al Senato, alla riforma della scuola. È passata con la fiducia, è passata con le proteste che abbiamo sentito anche in audio nel nostro Parlamento alle 6.30, proteste, caos in aula, scrive il Corriere, ma la fiducia sulla scuola passa. Ovviamente tutti si concentrano sull'aspetto politico della rissa, degli scontri. Io credo che sia molto più importante segnalare che cosa? I contenuti della riforma, perché poi uno vede dei parlamentari che urlano, qualcuno che ha nominato la vaselina da mettere, poi non ha sviato la frase. Questo è stato il leghista Centinaio al Senato, ma in realtà uno non capisce poi bene. Vi segnalo pagina 4 di Repubblica, invece Corrado Zunino fa un dossier su che cosa sono i contenuti sostanziali di questa riforma: i presidi con più poteri ma valutati ogni 3 anni, i 100.000 precari che verranno assunti, il bonus ai prof migliori, quindi ci sono tutti i termini di valutazione, assunzioni, supplenze, concorsi, i temi sui dirigenti scolastici, buoni scuola, il tema delle paritarie, insomma nel dettaglio una riforma molto complessa che uno può leggere e poi ovviamente valutare. Certo, poi c'è appunto l'aspetto politico. Renzi dice ai suoi, come racconta Francesco Bei nel retroscena di Repubblica pagina 2, ora il peggio è alle spalle. Il peggio è alle nostre spalle e gli insegnanti capiranno. Da qui alla fine dell'anno spenderemo oltre 1 miliardo di euro nella scuola, i soldi ci sono. E quindi l'accordo interno che ha tenuto, ora possiamo rimettere in pista la riforma costituzionale per approvarla prima dell'estate. Un Renzi dunque che incassa questa vittoria politica e va avanti nonostante il caos parlamentare. C'è anche un'intervista, vi segnalo, al capo dei presidi, Giorgio Rembado, intervistato dal Messaggero, che dice a pagina 9, intervistato da Valeria Arnaldi, si poteva avere anche più coraggio. Sicuramente il testo originale aveva un impianto più coerente ed era più innovatore. Va detto che il percorso di questo documento è iniziato molto prima del disegno di legge, ma il maxi emendamento mantiene spunti importanti per l'organizzazione del lavoro. C'è anche questa domanda sul super preside, come viene definito. C'è stata un'enorme strumentalizzazione su questo punto, dice Rembado. La vera innovazione del sistema è nella più matura interpretazione del concetto di autonomia riconosciuta alla scuola già dal 1997, ma fino ad oggi non ancora attuato. Dunque, i presidi approvano con la riserva delle troppe ripetizioni il maxiemendamento che è stato votato, mentre invece molti contestano. Anche il Manifesto oggi mette in prima pagina, i sindacati contestano intanto, il titolo del Manifesto di prima pagina è Silenzio in classe, in Senato il maxiemendamento. Ma per esempio Gotor del Partito Democratico, uno che è bersaniano, dunque anti-renziano se vogliamo semplificare, dice non ci perdoneranno gli elettori questo tradimento nei loro confronti. Invece, se abbandoniamo la scuola, c'è il tema dei migranti, che rimane ancora bene ampio, trattato sui giornali e anche nell'agenda europea, dove ieri Renzi è andato in questa cena nel è uno dei temi che è stato affrontato ovviamente dai capi di Stato e Governo dell'Unione Europea nel lungo vertice di ieri. La politica comune sull'immigrazione. E già in questo titolo, politica comune sull'immigrazione, c'è veramente un controsenso, perché se c'è qualcosa per cui, su cui l'Europa è divisa, è proprio questa. Tanto che ieri, secondo i giornali, vi segnalo retroscena del Corriere della Sera, ma anche della Stampa, Renzi ha battuto i pugni sul tavolo, questo almeno raccontano i giornali in Europa. Sentite la Stampa, Renzi furioso coi paesi dell'est. Ci fate solo perdere tempo. Addirittura in questa cena Renzi a un certo punto ha detto: mi emoziono davanti all'Europa, sono figlio di questa storia, mi emoziono pensando che domani sarà qui Delors. Ho pianto per il muro di Berlino, ho pianto per Srebrenica. Credo in un ideale. A quel punto è intervenuta, a quel punto della cena, la Merkel ha invitato tutti a restare calmi. Renzi ha risposto di essere un sentimentale. Sta di fatto che la cena è stata addirittura interrotta perché Renzi ha sbottato. Ma se questa è la vostra idea di Europa, cioè non solidale, fate pure, tenetevela. O c'è solidarietà o non fateci perdere tempo. Soprattutto ce l'aveva quei paesi dell'est. Vabbè, sappiamo, l'Ungheria è quella che vuol fare il muro addirittura al confine con la Serbia. Comunque diciamo che Renzi è molto arrabbiato, ma arrabbiati con Renzi sono invece i governatori, i leghisti, Maroni e Zaia. Zaia addirittura ha detto: i prefetti si ribellino e non seguano gli ordini del ministro dell'interno. E Zaia sarà ai nostri microfoni alle 8:20. Ma anche Giovanni Toti, neo presidente della Liguria per il centrodestra, intervistato dalla Stampa, pagina 3, intervistato da Emanuele Rossi, dice: non si scarichi su di noi il flop del governo all'estero. Rilancia questa idea, bisogna fare campi in Libia. Certo, fare campi in Libia chissà se è facile. Sta di fatto che il governo deve certamente stare attento in questo momento, perché mediaticamente questa politica mancata di controllo sull'immigrazione non paga. Questo lo scrive anche nero su bianco il Corriere della Sera con un sondaggio Ipsos che trovate a pagina 6, la firma di Elena Tebano. Il 66% degli italiani critica il governo. Pensate che favorevole all'accoglienza anche dei profughi è solamente il 16% delle persone intervistate. Insomma, i giudizi negativi sull'azione verso i partner continentali, invece, quindi la sfiducia verso come si sta comportando l'Europa, sale al 74%. 74% di persone dicono l'Europa si sta comportando male. Quindi diciamo che questa vicenda immigrati, di cui scrive anche molto bene Beda Romano sul Sole 24 Ore, pagina 5, con un'Europa spaccata e divisa, non sta neanche portando grandi risultati all'immagine del governo. Ne è ben consapevole anche la rappresentante dell'Unione Europea come ministro degli esteri, diciamo l'altro rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, che oggi fa una lunghissima conversazione con Claudio Cerasa, direttore del Foglio, la trovate in prima pagina del Foglio, contro l'Europa degli irresponsabili. Primo punto, visto che provochiamo la Mogherini, in Europa dove la Francia respinge i migranti, l'Ungheria costruisce muri, l'Austria minaccia di chiudere le frontiere, la Gran Bretagna ci rifila pernacchia, a che serve Federica Mogherini come alto rappresentante per la politica estera europea? E Mogherini accetta la provocazione del Foglio e dice: calma, che la situazione non fosse risolvibile facilmente era chiaro 6 mesi fa, è chiaro ancora oggi, ma non accetto che si dica che non ci sono stati risultati. I risultati ci sono, importanti, e riguardano 2 punti fondamentali. Il primo è politico ed è la cornice, il secondo punto è il contenuto ed è ciò che sta cambiando nel concreto. Dal punto di vista politico è un successo il fatto che per la prima volta il tema del flusso dei migranti che arriva in Europa non sia più una discussione nazionale ma europea. Finalmente la si tratta non solo come un tema di ministeri dell'interno, ma è una delle priorità dell'Europa. Sì, verrebbe ad aggiungere, però non c'è una soluzione. Cioè, si discute. Dal punto di vista dei contenuti, dice invece la Mogherini, e qui ovviamente dobbiamo entrare nel campo dei ragionamenti che toccano la Libia, molto è cambiato. E infatti Federica Mogherini dice: presto, nella fase 2 ci avvicineremo alle coste della Libia. Non si capisce bene questo ci avvicineremo che significa. Ieri ci ricordava Maurizio Tortorella su Panorama, il sottosegretario, ex sottosegretario, ministro dei trasporti Delrio, dice: è possibile bombardare gli scafisti? Non lo so, ci avvicineremo alla Libia. È possibile bombardare gli scafisti con gli scafi vuoti, ovviamente. Che vuol dire tutto questo? Staremo a vedere. Certo, secondo Repubblica, il piano del ministro dell'interno è questo per gestire l'emergenza. Vladimiro Polchi, pagina 6. I clandestini andranno al sud, i rifugiati al nord. Cioè, al sud, la rete dell'accoglienza italiana nelle regioni del sud riceverà soprattutto i migranti economici, irregolari, che richiedono asilo, mentre al nord arriveranno quelli che richiedono lo status di profughi o di rifugiati. Questa è un po' la scelta del Ministero dell'Interno di dividere in due fasi. Staremo ovviamente a vedere anche lì. Mentre per la Grecia, lo dico io o lo dice Mauro Meazza, sembrano ore, come dire, caro Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro, sembrano, mi sa che ci tocca dirlo. Decisive! No, diciamolo, però non so, si può mettere un annuncio per dire stavolta seriamente decisive. Sì, non è andata benissimo, non sta andando benissimo la trattativa, comunque prosegue oggi, prosegue domani, chissà, forse pure domenica, vediamo come le cose si sviluppano. Effettivamente, come leggi sul Sole 24 Ore di oggi, già la terza pagina appunto dedicata alle trattative, a queste trattative infinite, come scrive Beda Romano, non si riesce a trovare ancora un punto di convergenza. Sì. Sembra come che la Merkel voglia fare la linea dura, ma insomma poi alla fine vedremo, si scoprirà tutta la fine, no, le carte in tavola. Sì, speriamo come quei film dove c'è poi il lieto fine, l'happy end. Anche perché a pagina 2 rispondiamo a una serie di domande: cosa succede se il governo greco va in default, cioè insomma non paga, e quindi ti invito anche gli ascoltatori, qui ci sono una serie di spiegazioni, l'effetto specialmente sull'economia greca di un eventuale default, di un eventuale fallimento sarebbe sicuramente devastante. Certo. A proposito, sai che uno dei punti di dissidio sono proprio le pensioni. Per le pensioni noi anche oggi parliamo, ma di quelle italiane, perché come annunciavi all'inizio ci sono i rimborsi, arrivano i rimborsi ad agosto, quasi 800 euro, 796 e spiccioli, ma attenzione, fino per le pensioni sotto i 3.000 euro di fatto, insomma andando in modo grossolano, perché certo, come sai il decreto legge ha fissato un tetto a questa rivalutazione, quindi arretrati pagati ad agosto, tutte le tabelline, puoi mostrare le tabelline? Eccole qua. Gli ascoltatori possono vedere direttamente le tabelline, c'è il calcolo dei vari arretrati anno per anno, 2012, 2013 2012. E così via, ecco, se mostri, mi sembra molto chiaro, non vorrei rubare altro tempo. Ti voglio segnalare, scusami, a proposito di Grecia, se vai nella sezione norme e tributi, tu leggi norme e tributi, sai che ti fa bene anche alla tosse, infatti vedi che è migliorata rispetto a qualche giorno fa. Sai che un'ascoltatrice mi ha mandato ma non sto scherzando, me l'ha mandato in redazione della vitamina per la tosse. Ma vedi, perché in fondo ti vogliono bene, non mi spiego come mai, qualcuno, ma questo succede. Qualcuno sì, non tutti, ma... Comunque il tribunale di Prato ha stabilito che bisogna risarcire un signore che la banca aveva convinto a sottoscrivere dei bond, delle obbligazioni greche, perché non l'aveva adeguatamente informato del rischio. E questo è un punticino di giurisprudenza che oserei definire interessante. Interessante, sì. Non nel senso anche di sviluppi negativi, ma insomma sappiamo che in questi anni i bond greci hanno subito una qualche decurtazione, ecco, allora la banca, non avendo adeguatamente informato il cliente, dovrà risarcire i suoi eredi, perché lui non sarà in condizioni, non essendo più tra noi, di ricevere il rimborso. Poi ti voglio dire, mica lì sempre tra i giornali sto decreto legge su crediti deteriorati delle banche, vendite. Hai guardato bene? C'hai un disordine su quel tavolo, guarda, si vede da qua. Vabbè, comunque se lo trovi, siccome ne parliamo anche oggi, anticipiamo un po' di cose, specie per quanto riguarda le esecuzioni, insomma, sai, le aste fallimentari e così via. Ecco, diamo un po' di indicazioni, però naturalmente sono in attesa della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Questo ti volevo segnalare. Uh-huh. E riporta, per favore, te lo chiedo per favore, questi due eurini. Va bene, da questa farò, banca, non so se Svizzera o cosa. Ieri, guarda, la direzione regionale della Lombardia ha dato una serie di spiegazioni. Non so se c'è anche una risposta per te, prova a vedere nelle pagine di norme e tributi, parlando proprio di voluntary disclosure, ma secondo me un pochino stavano pensando a te dando queste risposte. Va bene, buona domenica Alessandro. Grazie, a te. Traffico! Alessandro Milan, di Gio Bastiani, dell'informazione. Qualche muoro? Se leggo questa notizia muoro. Mamma mia, vabbè. Va bene, queste sono le nostre sigle che potete mandare allo 0246524492, la nostra segreteria telefonica. Ho qualche giornale, qualche articolo interessante ancora di politica. Ne ho letto uno sul Corriere della Sera di Maria Teresa Melia, un retroscena che riguarda la RAI e la riforma della RAI. Renzi avrebbe in mente, sapete che tra poco, cioè è già scaduto il direttore generale Luigi Gubitosi, che dovrebbe passare, secondo il Corriere, o alle Ferrovie, dicono i più, o alle Poste. Perché alle Poste? Perché potrebbe arrivare alla RAI, nella nuova RAI, come presidente della RAI, Luisa Todini, che attualmente ricopre proprio l'incarico di presidenza delle Poste Italiane. Tra l'altro sarebbe anche una mossa, secondo il Corriere della Sera e secondo Maria Teresa Meli, che scrive l'articolo, per riavvicinare Renzi a Silvio Berlusconi, perché Luisa Todini è considerata un po' di area di centrodestra, è stata già nel CDA della RAI e poi è andata alle Poste e potrebbe essere messa come presidente della RAI, mentre l'ipotesi più accreditata per sostituire Luigi Gubitosi a direttore generale, secondo il Corriere, è in questo momento Vincenzo Novari, genovese, attuale amministratore delegato di 3 Italia. Staremo ovviamente a vedere, sono retroscena che chissà. Staremo a vedere anche le Olimpiadi a Roma. No, aspetta, andiamoci con calma. Insomma, ieri c'è stato il primo sì alla candidatura alle Olimpiadi, nonostante tutto il casino politico, le pressioni mediatiche, nonostante Repubblica scriva ancora a pagina 17 che il dossier Gabrielli mette, del prefetto Gabrielli mette Marino sempre più in bilico, Marino va avanti e ieri ha presentato la candidatura alle Olimpiadi, approvata, e quindi ora ci sarà la candidatura, poi avanzeremo la candidatura, verrà esaminata, verrà poi valutata, da qui a dire ci saranno le Olimpiadi, il passo è veramente molto molto, i passi sono molto, sono molti da fare. Certo, viene intervistato sia dal Messaggero sia dal Corriere della Sera Luca Cordero di Montezemolo, che è il presidente del comitato promotore delle Olimpiadi, dice: è un'occasione per riscattare la città con l'aiuto di Quirinale e governo. Molti cittadini penseranno invece che proprio l'ultima cosa che serve anche le Olimpiadi, ma si sa, il dibattito in questi casi è sempre quello. Prima in segreteria telefonica un ascoltatore ci chiedeva: ma i Marò che fine hanno fatto? Sono sempre uno in India, uno in Italia per motivi di salute. Ebbene, proprio oggi ci sono due articoli, uno sul Giornale e uno su Libero. Leggo quello del Giornale di Fausto Biloslavo: Marò, l'India allunga l'agonia. Sarà braccio di ferro oppure la resa? C'è questa domanda. Insomma, vi ricordate dei Marò che sono dimenticati? Sono ormai 1227 giorni che sono uno in India, uno, ripeto, è tornato in Italia per motivi di salute, ma Massimiliano La Torre il 7 luglio dovrà tornare in India perché scade, insomma, il permesso per salute, e i giudici indiani hanno deciso di rimandare ancora l'udienza di una settimana il 14 luglio. È una scelta non a caso, visto che il giorno dopo, anzi quindi il 15 luglio, scadrà il permesso sanitario concesso alla Torre e dovrà tornare. E il Giornale Libero dicono: il governo non sta facendo niente, è in silenzio, anche se queste cose poi magari non vengono sbandierate ai 420, comunque è in silenzio e i Marò rimangono ancora in uno stato di incertezza per quel che riguarda il loro destino. Allora, veniamo a qualche notizia invece di cronaca. Se volete, di esteri c'è molto di quello che è successo a Kobane, città che era stata riconquistata dai peshmerga curdi dopo che era stata conquistata prima dall'ISIS, ma ora Kobane è tornata parzialmente in mano allo Stato Islamico. Questa non è per niente una buona notizia. Il nuovo blitz dell'ISIS a Kobane, la città simbolo sotto assedio, vi segnalo come al solito, perché è il mio giornalista preferito, inviato della Stampa, Domenico Quirico, ne scrive in prima pagina della Stampa: un rovescio che spazza l'illusione di battere il califfato solo con i curdi. Kobane che ricade parzialmente sotto le mani dello Stato Islamico. Qualche notizia di cronaca in Italia. Allora, sappiate che secondo il giornale sono sempre più, in realtà è un rapporto dell'INPS che viene citato dal giornale, sempre più le italiane che per virtù della crisi, o per colpa, meglio dire, della crisi, tornano a fare le collaboratrici domestiche. L'anno scorso, nel 2014, l'anno scorso sono un più 4,3% rispetto all'anno precedente. Richieste record soprattutto in Calabria. Le italiane ritornano colf per spazzare via la crisi. Tiziana Paolocci ne scrive a pagina 12 del giornale. Mentre qui c'è da fare un appello pubblico, signori e signore, perché C'è un premio da riscattare, è vero. Il giornale fa una pagina, dedicata, pagina 19, a questo. C'è un signore, è lo stranissimo caso del premio milionario che nessuno riscuote. Andrea Cuomo racconta che c'è un signore o una signora, un fortunato giocatore, che ha giocato al Win for Life a Lissone, in provincia di Monza, quindi in Lombardia. Ha vinto una vincita da 4.000 euro, una rendita a vita di 4.000 euro. Ma il premio non è mai stato ritirato. La Sisal ha fatto un appello dicendo deve presentarsi. E c'è anche una scadenza il 29 giugno. Scade il tempo per ritirare, altrimenti resta tutto in cassa. Questa vincita da 4.000 euro. Ovviamente il giornale fa varie ipotesi. Primo, il Gastone Paperino non sa di aver vinto. Allora facciamo anche un appello pubblico, se qualcuno ha giocato a Lissone, un Win for Life, il 30 aprile alle 12.15 alla tabaccheria di via Monza numero 60 Lissone, se avete giocato avete vinto una rendita. Oppure ipotesi 2, lo sfigatissimo sa bene di aver vinto ma non trova più il biglietto. Oppure ipotesi 3, ama la suspense e si presenterà il 29 giugno, l'ultimo tempo. Oppure Win for Life, ma è morto. Non lo so, potrebbe, e quindi potrebbe succedere. Vabbè, insomma. Comunque, l'appello l'abbiamo fatto, siamo al momento della carta costa. È il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Un'intera pagina oggi del Corriere della Sera, una intera dedicata alle mance, il dramma del tipping in America, le mance. Quanto si paga di mancia? Dove si paga? Quant'è la percentuale? Come? Quando? In Giappone, in America, in Francia? Qual è l'usanza delle mance? Ma chi se ne frega!